attenta il timone governa la bella. Calata è la notte per l'ampia laguna, fra nuvole rotte s'affaccia la luna. Il nido s'accosta, Venezia pian piano si fa più nascosta, svanisce l'oratorio. Nell'ora felice che a tutti nasconde, e il cuore dice, lei t'amo, risponde, fra i nomi più cari la bocca è rivolta, tra i nuvoli radi la luna li ascolta.